24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 6:33 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua. Oggi la sigla, come sentite, è stata un po' nuda, è nuda la sigla. E perché è nuda la sigla? Perché le urne alle 7 riaprono e quindi non possiamo fare nulla, non possiamo dire nulla. Possiamo parlare del Papa, se volete, possiamo parlare di calcio, se volete, di calcio, se volete, nel nostro bar condicio, quello lo possiamo aprire, la bar condicio non c'è più, adesso come lo chiameremo? Boh, non so, Nicole Minetti c'è invece? Sì, avete finito di rompere le palle con la Minetti, è la Minetti, sempre la Minetti, non sapete parlare d'altro, andate a lavorare, pelandroni. Parleremo un po' d'altro adesso anche, grazie anche al nostro ascoltatore che ogni tanto ci fa queste improvvide entrate. Allora, vogliamo parlare di calcio? No, io voglio salutare intanto Silvia Brasca del TG della 7, buongiorno, ancora la voce? Chissà? Sì, altro che. Sei stata ieri a San Siro, interista, maledetta, che non sei altro. Certo che ero a San Siro. Vabbè. E sono uscita contenta. E certo, per forza, dovevate perdere 5-1, dovevate perdere 5-1, 6-1, 7-1. Il primo tempo, alla fine, ho visto il punteggio alla fine del primo tempo, ho detto, come 1-0? Come 1-0? Sarà qua, si sarà sbagliati, sarà 4-0. E invece ma è così, è il derby, è il derby, signore Milan, non È il derby. Allora, voglio salutare anche Antonio Taglia, buongiorno, che è in Italia. Taglia, eccolo qua Antonio, per anni corrispondente dell'Agira Pechino. Ma dove sei adesso? Sei a Milano? Adesso sono a Milano. Sei tornato? No, ma torni, cosa fai? Vai in Cina? Sono rientrato dopo 6 anni. Mannaggia. Eccoci qua, tifoso della Regina, dico bene? Assolutamente. Ma in che serie militate? In che serie militate quest'anno? Cosa siete, in serie B? Quest'anno sì, in Serie B ce la stiamo vedendo anche abbastanza brutta. Abbastanza brutta. La situazione migliori un po'. Vabbè. Allora, Silvia, ieri eri a San Siro, ma allora ma a un certo punto mai twittato che è entrato, cos'è che hai detto? Dire ai nipoti che è entrato a un certo punto Centofanti, ve lo ricordate? Centofanti dell'Inter, Schelotto ci ha fatto pure gol, mamma mia. Ormai io li sovrappongo, cioè, da quando è entrato anche l'ultima volta per me sono la stessa persona, benedetto lui. Ieri, non so, c'erano due partite in realtà, quella sul campo che è stata quella che era, e poi quella degli spazi, certo, Balotelli, quella delle curve, non voglio aprire il discorso delle curve, ma bisognerà farlo prima o poi. Cioè? Perché si sono comportati un po' male. Certo che si sono comportati male, tutte e due, noi in un modo quelli dell'Inter, infatti, non sono proprio d'accordo, tra l'altro abbiamo anche un faro che è stato Mourinho che ci aveva dato la linea su come comportarsi e non è stato ascoltato, insomma. Quindi alla fine comunque secondo me anche Balotelli, insomma, li ha sentiti, era nervoso, Sì, più che altro era nervoso perché ha sbagliato qualche gol, ha parato. qualche insulto. Guarda, io mi aspettavo, adesso non ero allo stadio, mi aspettavo anche di peggio, quindi tutto sommato, gli insulti che dovevi fare? Ti aspettavi che non si insultasse Balotelli? Però i versi ci sono stati, le banane. C'è stato. Quella roba lì non si può davvero. Io quelli ho fatto tolleranza zero. No, quelli non li ho sentiti, non si sono sentiti per TV, quelli sono stati. Ci sono stati. Vabbè, ma tra l'altro calcio non calcio, no, ma noi tra poco parleremo anche di politica, però dobbiamo farlo, vi devo chiedere un esperimento, possiamo farlo, per il dovere di cronaca, ma tra poco vi spiego tutto. Antonio Taglia, tra l'altro, ma di recente ho letto che è stato arrestato anche una persona che a Singapore gestiva tutto il calcio dal punto di vista, insomma, non il calcio giocato, quello brutto, no? Il calcio scommesse, è così, è vero che c'è una persona che se parla e se arriva in Italia parla rischia di far franare un po' tutto? No, allora, intanto sì, la persona dovrebbe essere Tan Se Teng. Sì, esatto, non mi azzardavo nella pronuncia. Quello che viene ritenuto è il capo del calcio scommesse, è un uomo di Singapore, di 42 anni, il suo nome è apparso nell'inchiesta di Cremona, La questione è che appunto al momento non si sa dove sia, probabilmente ancora a Singapore. Le ultime novità che ci sono da questo fronte, io me ne ero occupato quest'estate perché sono stato a Singapore prima per Panorama e poi per un documentario di Canal Plus sul calcio scommesse. La questione è che l'ultima novità, ci sono 4 investigatori della polizia di Singapore che nelle prossime settimane saranno a Lione per collaborare con l'Interpol. L'impressione che ho avuto l'ultima volta che sono stato a Singapore è che in qualche modo ci saranno degli arresti anche lì. Ricordiamo che un po' tutte le persone che erano coinvolte, Singapore è la centrale del calcio scommesse per tutta una per tutto il mondo, ma quindi poi... questo riguarda anche l'Italia ovviamente, cioè rischia di creare problemi anche in Italia, no? Ma sì, sicuramente, nel senso che comunque i capitali e gli uomini di Tan Seh Teng, come ha dimostrato l'inchiesta di Cremona, hanno effettivamente truccato delle partite in Italia. Probabilmente ci sono state molte più partite truccate, perlomeno questo è quello che l'impressione che ho avuto dall'ultima volta che sono stato a Singapore, parlando sì. anche con un po' di persone collegate alla banda di Tan Seh Teng, i quali si fanno scudo del fatto che comunque non possono essere estradati e con un minimo di lavoro di scavo, se riesce a beccare la persona giusta, qualcosa te la racconta. E però di fatto si tratta di una holding che sì. probabilmente in questo momento si è già spezzettata in 4-5 gruppi. Insomma, parlarne, Silvia, tu che sei appassionata di calcio come me, ma come anche Antonio, sentir parlare di questo aspetto del calcio come se fosse veramente di un'organizzazione criminale, e purtroppo ci sono persone che speculano sui risultati delle partite, sulle scommesse, eccetera. E poi uno va allo stadio, io rimango ancora con quell'indole un po' da una parte bambina, dico ma sì, quello che vedo in realtà penso che sia lo spettacolo onesto, nel senso che se no non guarderei più la partita, no? Cosa dovrei fare? No, anch'io la penso così, poi per carità le procure hanno fatto un gran lavoro e le cose ci sono, sicuramente da Singapore qualcosa scucciola ed è scucciolato anche in Italia, però penso siano e spero che siano stati dei casi limitati. Insomma, andiamo, vediamo le partite, andiamo allo stadio, cose clamorose, a parte quelle che abbiamo visto, io non ne vedo. Ci sono alcuni risultati magari a fine stagione, certo, quando uno vede segnare 100 fanti schelotto effettivamente un dubbio che qualcosa ci sia di comprato c'è, perché però poi si interroga sempre e vede che abbiamo Mexes e Zapata centrale difensivi, allora dice allora è tutto chiaro. Va bene, allora io voglio fare con voi questo esperimento, perché c'è il diritto di cronaca, il dovere di cronaca, noi possiamo mandare in onda quello che è successo, alcune cose nel weekend, voi però non potete fare commenti. Bisogna mandarlo tutto in maniera settica, quindi quando io vi manderò queste cose voi direte vi interessa? No, e passiamo avanti, no? Va bene, allora c'era il silenzio elettorale venerdì, ma Berlusconi, che era a Milanello tra l'altro per la presentazione per parlare del derby, ha parlato anche di altro, sentite. Perché qui in Italia mi hanno fatto un attacco con il Bunga Bunga, che è una operazione di mistificazione e di diffamazione nei miei confronti che non si regge su nulla. Infatti non è venuto fuori niente. Hanno fatto 150.000 intercettazioni telefoniche, non è venuto fuori un reato. E continuano con i processi che sono stati ripresi da tutti i giornali stranieri, dove la magistratura è una cosa seria, mentre da noi è una mafia più pericolosa della mafia siciliana. E lo dico sapendo di dire una cosa grossa. Allora, ti interessa, Silvia, questo argomento? No. No, mi sembra no. Antonio, a te ti trovi? No. Va bene, allora andiamo avanti. Allora, ieri, ma tra l'altro avete già votato. Tu dove voti, Antonio? Voti in Italia, voti all'estero? Dove? Io sono rientrato in Italia, sono residente in Italia adesso, ho votato a Milano. Hai già votato. Tu, Silvia, hai già votato? Votato ieri. Avete votato. E allora, ieri cosa è successo al seggio dove si è presentato sempre Silvio Berlusconi? Ci sono state delle contestazioni a seno nudo delle femen, come si chiamano, che manifestano un po'. Sentite la contestazione, magari un po' concitata. sono state atterrate dalla polizia, una di queste adesso si lamenta. Ecco, una cosa si può commentare: sapete come si chiama una di queste? Silvia, Antonio, sapete come si chiama? Inna. Sì. Shevchenko. Quella sì che andava bene per il derby, porca miseria, invece di portarla in carcere ce la mettevano in campo e magari finiva in modo diverso. Sì, Alessandro, sembra quasi una nemesi, no? Sì, no, infatti Inna Shevchenko, con Berlusconi, che contesta Berlusconi, è fantastica. Vi regalo anche questa, allora. Ragazzi, non è che possiamo, gli unici audio ieri sono la comunque vi interessava commentare questo argomento? No. Ma io su Femen mi interessa, ho delle belle curiosità di sapere. Per davvero. Esempio, ecco, da donna, che ne pensi? Non mi piace, ma penso che già col corpo delle donne venga fatto fin troppo, si possono adottare altri metodi. Queste esibizioni non mi piacciano. Sì, ci dovrei riflettere meglio, però a pelle proprio, insomma... Poi sono scalmanate, al di là stiamo parlando non dell'episodio di ieri, dell'episodio di ieri non ce ne interessa nulla, ma hanno contestato tante volte, sono scalmanate, cioè perché arrivano a questo? Una buona regia, è quello che dico, l'ultima volta erano a Davos, poi in Piazza San Pietro, proprio una mia curiosità non morbosa, io voglio capire, insomma... perché sono venute qua, come hanno saputo che andava Berlusconi lì, chi le paga, cioè nel senso chi finanzia questo movimento. C'è una regia dietro. Per esempio... Una regia, adesso che va in regia. No, va bene, nel senso che sono... Una mia curiosità perché sono ben organizzate. Sono ben informate. Greenpeace è un'organizzazione grossa. No, ma è chiaro. Tutto il mondo, queste sembrano 5 scalmanate, ma in realtà non lo sono. Per esempio, Antonio Taglia, che succederebbe in Cina di fronte a una manifestazione del genere? No, non lo so, puoi dirlo, tanto altro che insomma quello che abbiamo visto, che già mi è sembrata una reazione come dire eccessiva da parte della polizia, però insomma Cina credo che non sarebbe neanche consentito di avvicinarsi. Lì proprio come fanno? Niente, figurati, appena uno si scopre subito vengono blindate. Vabbè, facciamo così. Posso dire una cosa, però certo, una cosa specifica, mi è sembrata un po' un caso di protesta omeopatica. Cioè? Insomma, metti delle donne a seno nudo. Fermati. 24 mattino. Eccoci qui. Ciao Milan, volevo solo dire che qui tocca a fare, Presidente, il contadino con la sciappa, forever! Presidente forever! Secondo me il contadino non è di Terni, perché la parlata non può essere di Terni. Sembra più di Cancelli, che è una frazione qui di Foligno. Indaga un po' meglio, grazie. 1, 2, 3. E adesso, tra poco, arriva Alessandro Milan, che come lecca il culo lui ai qualunquisti, nessun altro al mondo lo sa leccare. Fai sentire anche questa, lecchino. Ciao Milan, non sono arrabbiata, anzi sono molto contenta. Volevo chiederti di non staccare la segreteria dopo le elezioni, ma di farla andare avanti ancora per un mesetto. Sono sicura che avremo molte informazioni dei nostri concittadini. Ciao, grazie, Anna Maria. Caro Milan, quanta gente adesso che vuole fare bella politica, ma in Italia c'è ancora qualcuno che va a lavorare o vogliono tutti fare bella politica? Ma andate a fare in culo tutti, va! Grazie. Eccoci qua, siamo con Silvia Brasca del TG della 7 e Antonio Taglia dell'agenzia AGI. Allora, chi è che ride? Chi è che sta sorridendo? No, puoi ridere, Silvia, puoi ridere, non è che ti devi trattenere, sei in onda. Cosa ridi? Per il lecchino, quello che mi dà il lecchino, no? Quello che ci manda. No, diciamo per l'accento della frazione di Foligno. Vabbè, contadino di Terni. Tu, Antonio Taglia, ne hai sentito parlare del contadino di Terni perfino in Cina? Vabbè, magari ci segui in podcast. No, chi è il contadino di Terni? Ma come il contadino di Terni è il nostro mito, quello che ci ha lasciato dei messaggi in segreteria, ma adesso non si fa più trovare. E pare, tra l'altro, per i messaggi in segreteria, lui ha preso in giro la classe politica, eccetera. Per i messaggi in segreteria, adesso è stato escluso nel suo paesino, in provincia di Terni, non sappiamo bene quale sia perché non ce lo dicono. Non lo fanno giocare neanche a 3-7 nel circolo dove deve andare a giocare. Dove va a giocare a carte, è una cosa incredibile. Ne hanno decretato la morte civile praticamente. È colui che ha evocato che cosa per i politici? La zappa. La zappa ci vuole, la zappa da 7 chili, a Zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro e a cena una minestra scunnita. Questo Antonio è molto cinese, come cura, devo dire. Come cura, sì. Sì, abbastanza. La zappa da 7 chili e una minestra scunnita e un pezzo di pane duro. E poi ha evocato anche di più sempre il contadino di Terni. Signore Milan, che potremo fare qui? Manco Santo Giuda, lo padrone delle cause aperte, ci serve più. La zappa non basta più, la mazza da 10 chili e spacca la pietra sulla cava. Ecco, questo devono fare. Eccolo qui. Vabbè, zappa e mazza. Allora, vi devo far sentire un'altra cosa. Vi ricordo sempre che siamo con le urne quasi aperte, quindi voi ascoltate la cosa, ma tanto non avrete voglia di commentarla perché è noiosa. È la fidanzata ufficiale di Silvio Berlusconi che va a votare Francesca Pascale a Napoli e poi le chiedono un commento e dice una piccola frase. Si aspetta soltanto il risultato, speriamo bene. Speriamo che non ci invadano i grillini, che sono degli indisciplinati. Ecco qua, Silvia, ti interessa commentare questa frase? No. No, la frase no, però noto che nelle europee del 2009 sì. La stessa Renzo era per Noemi Letizia. Ah, ecco, vabbè. Nel suo seggio di Napoli, stessa ressa, stessi occhiali da sole. Vabbè. Fine del commento. Ecco, esatto. Allora, ci sono stati gli Oscar. Tra l'altro, poco fa Marta Cagnola. Poi sapete chi ha vinto gli Oscar? Lo volete sapere in diretta? Adesso mi chiedete le cose, io non le so. Allora, il miglior film l'ha vinto Argo, questo lo sappiamo. Ho sentito prima Marta che lo diceva in diretta. Poi ha vinto, come si chiama la miglior attrice? Jennifer Lawrence, può essere? Jennifer Lawrence. Sentite, allora, proclamano vincitrice, cioè proclamasse, non so, vincitrice, miglior attrice Silvia Brasca. Tu cosa faresti? Insomma, vai lì. Cosa fa Jennifer Lawrence? Ti giuro. Crolla di faccia in avanti nel salire sulla... E poi sentite, praticamente ha detto in inglese, possiamo far risentire le parole, praticamente le prime parole sono state: scusate, sono caduta. E ha detto I fell, it's really embarrassing, thank you. Cioè, ma ti danno l'Oscar e tu che fai? Cadi faccia avanti. Un disastro. Silvia, di qualcosa. C'è cosa... Dico, vabbè, lei è un disastro, però ho trovato molto, insomma, bella presenzialista Michelle Obama, sono fortissimi. Obama non perde un'occasione. L'hai seguito poi alla fin fine? Qualcosa sì. Ecco, io invece volevo fare una domanda a Antonio sulla questione del conclave del Papa. Come si segue in Cina la vicenda del Papa? Ma c'è ovviamente molta curiosità, non tanto tra la popolazione, perché comunque i cattolici sono ovviamente una minoranza, però il governo sta seguendo con molta attenzione quello che succede, perché c'è questa questione relativa a questa minoranza di cattolici che, come sappiamo, di fatto ha due chiese parallele. Cioè c'è la Chiesa riconosciuta dal partito, i cui vescovi giurano fedeltà al partito, e poi c'è la cosiddetta Chiesa Cattolica Sotterranea che invece è legata al Vaticano. Ci sono delle figure che sono diciamo borderline, quindi dei cardinali che cercano anche magari giustamente di unire le due cose, di percamenarsi. In qualche modo le questioni vaticane hanno un'importanza anche in Cina, perché c'è questa questione

carte che trovate, le slot machine, così si chiamano, che trovate in tanti locali, nelle grandi città, ma non solo, anche nelle piccole città. Noi ne parliamo fino alle 9 e vogliamo partire in questo racconto da una testimonianza. Io voglio dare il buongiorno al signor Giovanni, non è il suo vero nome, ma lo chiamiamo così, ne tuteliamo l'anonimato, tra poco capirete perché. Signor Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Lei fa parte dei giocatori anonimi del Niguarda, uno degli ospedali di Milano. Diciamo che non è proprio nell'ospedale, ma fa capo alla zona di Niguarda. Di Niguarda, che è uno... Noi a Milano siamo, però ce ne sono altre sedi. Sì, sì. Perché ce n'è una in via Palestrina. Mm-hmm. E una in via Santa Rita. Perfetto. Comunque, insomma, una delle associazioni e una delle sedi di Milano di giocatori anonimi. Quando io dico giocatori anonimi, che cosa vuol dire? Si tratta di persone che evidentemente sono, posso dire questa parola, cadute nella rete del gioco e faticosamente poi ne sono uscite? Sì, guardi, infatti questi gruppi sono composti appunto da ex giocatori che cercano di aiutare le persone che sono cadute come noi in questa dipendenza, perché oramai anche a livello medico è riconosciuta come una dipendenza, nel tentativo di uscirne. Di conseguenza cerchiamo di parlare delle nostre esperienze e tutto, di quello che abbiamo passato prima, di quello che stiamo passando adesso, e cercare di aiutarli moralmente a superare questi periodi. Senta, lei so che è da 29 mesi che non gioca più. Funziona come per gli alcolisti, cioè si dice una volta che si è non lo si è a vita e quindi bisogna tenere questo conteggio per sempre? No, diciamo che il tenere il conteggio non è, diciamo, un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Io tutte le volte quando penso, dico, sono 29 mesi che non gioco, bene, da questo punto devo ripartire per farne altrettanti. Mm-hmm. Lei quando è che ha iniziato a giocare? Ma diciamo che sino a 10-11 anni fa potevo essere considerato quello che noi chiamiamo giocatori occasionali, era una volta ogni tanto, non capitava magari quelle 4, 5, 6 volte all'anno che eravamo magari vacanza vicino dei casinò, si andava qualche volta giù le saloni delle slot e poi quando si tornava a casa basta, era chiusa lì. Dopo purtroppo, diciamo 10 anni fa, ho avuto una grossa disgrazia e da lì è cominciata la dipendenza al gioco. Per me era diventato come, posso paragonarla alla morfina per un malato terminale. Ecco, questo è un punto interessante, perché sa, signor Giovanni, non è molto facile da capire. Spesso nei racconti che persone come lei fanno parlano proprio di vera e propria dipendenza, mentre è più facile da capire la dipendenza dalla droga, perché ha anche un effetto fisico. Ci spieghi che vuol dire la dipendenza da parte sua nei confronti del gioco? Vede, per me, come penso anche per tanti altri giocatori, io quando giocavo non pensavo più a quella situazione. Di conseguenza la mia mente era concentrata solo sul gioco e basta. Però purtroppo dopo aver superato un periodo di crisi è rimasta quella dipendenza al gioco. È un po', diciamo, appunto come un antidolorifico per un malato terminale. Magari passa il dolore, però resta la dipendenza di quella a quei medicinali. Di conseguenza, appunto, non da lì diciamo a diventare un giocatore compulsivo, il passo è molto ma molto breve. E il giocatore compulsivo, questo l'ha aiutata anche il fatto, ovviamente l'ha aiutata, non è il verbo giusto, il fatto di trovare a disposizione anche le cosiddette nei bar, le cosiddette slot machine, quelle che, insomma, le macchinette che ormai ogni bar ha dentro di sé? Quello è stato, diciamo, la spinta finale, ma poi vede, tante volte non è solo la dipendenza dalle macchinette, la dipendenza può arrivare anche da qualsiasi altro gioco. Per esempio adesso noi siamo invasi dai cosiddetti gratta e vinci, dal bingo, il lotto, che di conseguenza si è portati continuamente, ero portato continuamente a giocare. Cioè lei vedeva quasi una sorta di offerta continua che agiva su, evidentemente, la sua psicologia molto molto indebolita da questo punto di vista, e la spingeva a continuare a giocare a tutti i tipi di gioco. Sì, qualsiasi tipo di gioco che mi capitava sotto mano per me era come attirare. E diciamo che l'invasione che c'è stata delle macchinette dappertutto è stato un po' come, io sono un pescatore, di conseguenza una volta quando si andava a pescare c'era la tecnica di buttare la pastura per attirare i pesci, e l'aver trovato le macchinette dappertutto è stato una, come se mi avessero pasturato attirandomi verso le macchinette. Però lei capisce, signor Giovanni, questo è un punto interessante, perché questo poi approfondiremo dalle 8:30 dopo la sua testimonianza. Nessuno l'ha mai obbligata, ovviamente, a giocare. La questione delle macchinette è una questione legata a delle leggi, c'è lo Stato che ci lucra, ci sono dei sistemi che vengono controllati. Però lei come definirebbe questo? Una sorta di tendenza a spingere a giocare forzata in qualche modo? Beh, guardi, un bel momentino, noi siamo, anche ultimamente, addirittura in televisione, siamo martellati dalla pubblicità di vari giochi, dai Gratta e Vinci, alle casinò online, al videopoker. Di conseguenza, se una persona ha soltanto un momento di debolezza, ci casca dentro. Quello che mi fa più rabbia è che io ho la dipendenza anche dal fumo, sono un fumatore, e quello non sono ancora riuscito a togliermi. Però lo Stato, per proteggere, diciamo, la salute dei cittadini, ha proibito completamente la pubblicità di qualsiasi tipo di tabacco, come anche qualsiasi tipo di alcolico. Quello che mi fa rabbia è che invece la pubblicità sui giochi continua ad aumentare. Lei la vorrebbe abolire? Secondo lei potrebbe, sì, essere un passo? Per me sarebbe da abolire. Anche perché è inutile che mi vengano a dire giocate con, come si dice, la frase che dicono, giocate con intelligenza. Con intelligenza, sì. E tutto. Perché poi, specialmente se si ha, diciamo, la fortuna o sfortuna di vincere subito le prime volte, diventa un'attrazione fatale, sì. Diciamo. Senta, lei quanti soldi ha giocato, quanti soldi ha perso, più che ha giocato, soldi ha perso? Io, arrivato a un certo punto, ho smesso di fare il conteggio, perché se ci penso rischio di cadere in depressione. Quindi la nostra filosofia non è tanto nel pensare a quello che si è perso, in lato finanziario, perché quello sarebbe, diciamo, uno può anche cercare di adagio adagio recuperare. Quello che fa più male è il male, quello che abbiamo perso nell'ambito della famiglia. Cosa ha perso lei? Beh, io mi posso considerare fortunato, perché mia moglie non mi ha buttato fuori di casa. Purtroppo per altri invece è successo. Io ero arrivato a un punto, diciamo, di il gioco mi aveva portato a, non dico alla pazzia, ma poco ci mancava. Quando mi sono accorto in un momento di lucidità di quella situazione, ho chiesto aiuto. Infatti, seguito da una psichiatra e poi da giocatori anonimi, sono riuscito a, diciamo, ad uscirne. Ma il conseguimento di questa, diciamo, di questo risultato lo devo molto anche a mia moglie, perché non mi ha abbandonato, mi ha aiutato e mi sta aiutando in tutte le maniere possibili. Senta, le storie che vi raccontate tra di voi, i giocatori anonimi, Anni Guarda, come in tante altre associazioni, immagino, di tutta Italia, che storie sono? Sono storie più o meno simili, perché si parla anche di, legato a questo mondo, di cadere facilmente, per esempio, in mano di usurai. È davvero così? Beh, da quanto mi risulta nel nostro gruppo quello non è successo, però ne ho sentiti parecchi, che di storie che magari si leggono anche sui nostri notiziari, di gente che purtroppo è caduta in mano agli usurai. Di conseguenza, noi comunque nelle nostre riunioni abbiamo, diciamo, una, noi la chiamiamo una letteratura, abbiamo un libro composto dai cosiddetti 12 passi di recupero. Noi durante le nostre riunioni li leggiamo, un passo ogni mese, e ne parliamo, ne discutiamo su quel passo, su cosa ci è trasmesso, e eventualmente anche se qualcuno vuol parlare della sua situazione momentanea o di quello che gli è successo, può parlare liberamente. Ma guardi, se poi lei è d'accordo, noi metteremo sul sito radio24.it tutti gli elementi per mettersi in contatto con la vostra associazione e con altre. Però le chiederei anche questo, signor Giovanni, il primo passo al di là di quelli che voi fate è quello di smettere di giocare e di contattare un'associazione come lei. A lei come è successo? Quando è che le è scattata la molla a dire ora basta? Gli ho detto, quando sono arrivato a un certo punto che rasentavo la follia, ho chiesto aiuto, infatti sono stato seguito per un certo periodo, per vari mesi, da una psichiatra, la quale poi dopo, a un certo punto, mi ha dato l'indirizzo, un numero telefonico, appunto, di Giocatori Anonimi. Però non è facile, cioè, perché che cosa scatta? Perché quel giorno, lei se lo ricorda quel giorno per cui ha detto no, invece di entrare a giocare qui, come ho fatto negli ultimi 10 anni, basta, non devo farlo più. Ma ero arrivato a un certo punto in cui dovevo decidere se continuare in quella maniera e arrivare alla rovina completa, oppure cercare aiuto. In combinazione, avevo appena letto un articolo su un giornale di una persona che si era suicidata a causa dei debiti del gioco. Di conseguenza mi sono un po', non dico spaventato, però ho ragionato un momentino. Dico, se vado avanti così rischio anche di giocarmi oltre alla casa e alla famiglia. E questo, in qualche modo, questa molla le è scattata? Sì, mi è stata, diciamo, è stato il primo impulso per vedere di uscirne. Senta, signor Giovanni, facciamo così, io mi devo fermare 5 minuti, poi noi continueremo la discussione. Intanto, per il momento, per questa testimonianza la ringrazio molto. Se lei vuole stare con noi, se vuole ascoltare la radio, noi adesso tra poco avremo il presidente della Federazione Sistema Gioco Italia, Massimo Passamonti, e avremo il direttore del settimanale Vita, Riccardo Bonaccina, che ha lanciato una iniziativa per sensibilizzare su questo tema. Vogliamo parlare degli italiani, il rapporto tra gli italiani e il gioco d'azzardo legalizzato. Senta, una cosa sola, sì, dica. Io volevo anche dire, aprire una piccola postilla, la dica. Nel senso che assieme all'associazione di Giocatori Anonimi, scusi la voce ma malanni di stagione, nelle nostre riunioni c'è anche un gruppo di sostegno, di autosostegno per i familiari, perché diciamo, noi ex giocatori passiamo dei momenti brutti, ma i nostri familiari ne passano anche dei momenti molto più brutti. E questo ce l'ha detto con la vicinanza di sua moglie, ce l'ha raccontato, sì, molto bene. Infatti mia moglie mi accompagna tutte le... il gruppo di Niguarda si riunisce lunedì sera, e mia moglie mi accompagna tutti i lunedì. Certo, noi abbiamo le nostre riunioni separate tra giocatori e da un altro, diciamo, in un altro locale, i familiari, e cercano di aiutarsi per superare anche loro questa situazione. Certo, giocatori e familiari. 24 mattino. Le 8:35 minuti, eccoci qua. Allora, dopo aver sentito la testimonianza di Giovanni, membro dei Giocatori Anonimi al Niguarda di Milano, insomma, vogliamo parlare di questo, il rapporto tra gli italiani e il gioco d'azzardo legalizzato. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Con noi c'è Massimo Passamonti, che è presidente della Federazione Sistema Gioco Italia, che saluto, buongiorno, torna con noi. Buongiorno presidente Passamonti, eccoci. Buongiorno agli ascoltatori. Saluto anche Riccardo Bonaccina, che è il direttore del mensile Vita. Buongiorno Bonaccina, direttore editoriale, benvenuto Bonaccina. Buongiorno Milan, buongiorno a tutti. Tra l'altro Bonaccina che ha lanciato, Bonaccina nel senso non lui da solo, ma nell'ottobre 2012 voi avete lanciato un manifesto proprio per non stare a guardare, così viene definito, no slot. Cioè, di che cosa si tratta? Cosa c'è di male in questo sistema del gioco d'azzardo legalizzato, Bonaccina? Ma noi abbiamo lanciato un manifesto perché lavoriamo spesso insieme alle associazioni sul territorio, dalla Casa del Giovane di Pavia, Caritas, Sacli, insomma tantissime associazioni che ci hanno segnalato diciamo i dati che sono pazzeschi, no, di questo fenomeno. Penso che sono circa 1,5 milioni i giocatori considerati ludopatici, quindi dei costi sociali enormi. Intorno a ogni giocatore di questo tipo ci sono 5 familiari che, come abbiamo sentito prima, sono coinvolti in maniera disgregante, no? Si saltano famiglie, figli che non riescono a studiare. Dice addirittura 1,5 milioni di ludopatici in Italia, sì, mi sembra molto alta come cifra, è così. È alta, questa è quella che ha dato Balduzzi, quindi diciamo è la fonte ad oggi più affidabile. Certo. E poi la diseconomia, cioè in alcune province si raggiunge il 4-4,5% del PIL che va in fumo, diciamo, per cui il futuro diventa un azzardo e vengono buttati via soldi e risparmi nelle famiglie di generazioni intere. E allora il manifesto, diciamo, un manifesto che sensibilizza, che chiede, diciamo, delle regole. Ho sentito prima la testimonianza che puntava il dito sulla pubblicità, quindi ci sono pubblicità che vanno sulla RAI alle 8:30 in fasce addirittura protette. Ma cercate di sensibilizzare su questo tema, però io vorrei chiedere, perché Passamonti, noi anche in passato l'abbiamo ospitata, so che è un settore che comprende 6.600 imprese e 100.000 addetti al lavoro, voi siete visti un po' nell'occhio del ciclone, come dire, coloro che appunto fate un'attività economica che però ha delle ripercussioni anche negative in alcuni casi sulle famiglie. Come ve la gestite? Ce la gestiamo intanto cercando di partire da dati di riferimento chiari, anche quelli che sentivo citati adesso sono così, mi ripassi il termine, un po' numeri all'otto, perché 1,5 milioni di ludopati non esiste da nessuna parte, cioè uno può dirlo, ma non esiste dato scientifico che sorregga questo numero. 4% del PIL è un'altra cosa che non sta né in cielo né in terra, cioè vuol dire anche nelle regioni in cui sulla media nazionale si gioca di più, si fa in modo maldestro riferimento al dato globale di raccolta, quando io approfitto per ricordare che gli italiani spendono per il gioco 17 miliardi, che non è il dato lordo, ma il dato dell'effettivo speso, sì, perché poi sì, ai risultati dei 80 miliardi si arriva con le vincite, quindi cioè, siamo molto, se va bene, intorno a un punto percentuale di PIL. Però non è il problema poco. Esiste, poi il problema esiste. Esatto. No, poi il problema esiste, no? Detto questo, però, per affrontare un problema e cercare di risolverlo si dovrebbe partire appunto da basi serie. Noi come Confindustria abbiamo proposto, prima che ci fosse questa ondata, anche giustificata, perché ripeto quello che io dico da tempo, per noi anche un solo caso di ludopatia è un problema, non si tratta di arrivare a 100.000, 200.000, 1 milione, no? Ma il problema va affrontato appunto sulla base di quelle che sono le considerazioni oggettive di questo mercato. Ma perché Passamonti in Italia, lei appunto contesta alcune cifre che credo aveva pubblicato il Corriere, cioè dicendo non tanto il giocato è il lordo, diciamo, poi bisogna togliere anche le vincite, quelle che sono degli italiani, però sì, siamo davvero, come diceva il Corriere, il primo mercato da questo punto di vista al mondo come numero di giocatori? Ma non è vero assolutamente. Il Corriere della Sera, nell'ultimo, quello che credo che lei si riferisca all'ultimo pezzo sul gioco online di Sergio Rizzo, sì, anche lì il dato lordo che è un dato di circa credo 15 miliardi di movimento, che corrisponde a circa 800.000 euro di giocato. Cioè, dire, queste, non si può cadere in questa mistificazione delle cifre. Il riferimento con l'Inghilterra gioca 5 volte di più sull'online, cioè voglio dire, poi tutto questo, quello che mi preoccupa oltre al caso diciamo così, del dramma che può colpire anche il singolo cittadino. Sì. Quello che mi preoccupa però è che questa mistificazione dei dati, che non capisco a che cosa corrisponde, la giustifico solo in relazione all'allarme sociale che va considerato e cercato di risolvere, e affrontarlo per cercare di risolverlo. Ma questo fa dimenticare che in Italia, ripeto, come siamo già detti l'altra volta, è stata fatta la più grande opera di legalizzazione del gioco. Sì. Lei immagina cosa sarebbe successo se non si fosse legalizzato il gioco in Italia, con quanti casi come quello di stamattina ci saremmo trovati? Sarebbe tutto clandestino. Però questo è un punto interessante. Riccardo, ma tutto clandestino, ma parliamo di cifre assurde. No, cioè, ma è chiaro. Del gioco. Io però, Bonacina, ha più colpa, direttore. Voglio dire, il signor Passamonti, presidente Passamonti, che rappresenta un sistema di imprese che operano nel gioco d'azzardo legalizzato, o c'è più da additare nei confronti dello Stato, per esempio, che con la legalizzazione lucra anche molto su questo? Buonasera. Allora, intanto due cose, 1,5 milioni, capisco Passamonti, ma non è un numero a caso, l'ha detto Balduzzi presentando il suo decreto il 12 dicembre. Il ministro Balduzzi l'ha detto a caso, mi dispiace Bonacina, ma l'ha detto a caso. No, però diciamo è una fonte, contesta il contesto, è una fonte credibile. Sì, non si contesta, Passamonti non contesta la cifra, ma contesta il ministro Balduzzi che l'ha fatta, ecco, questo è il punto. Buonasera. Solo per chiarezza professionale. Sì. So che Passamonti e Sistema Gioco Italia, anche loro hanno questo problema, perché tra l'altro diciamo il sistema del gioco legalizzato sta recuperando meno di quello criminale. L'altro giorno sono usciti i dati della Direzione Nazionale Antimafia che dicono che su 379.035, che è il numero totale di slot in Italia, 200.000 sono le macchinette truccate. Quindi capite che è un problema enorme sia per lo Stato sia per Sistema Gioco Italia. Ecco, quindi diciamo i numeri Passamonti sono… Sì, per lo Stato perché non guadagna quanto vorrebbe evidentemente, certo, Bonacina. Certo. Ma credo anche chi ha interesse diciamo a tenere nel quadro della legalità il gioco, no? Quindi credo che sia Passamonti anche... queste cifre sono cifre che contesta, le 200.000 macchinette truccate? Guardi, anche questo. Allora, il dato riportato che sta citando Bonacita è un dato sicuramente preoccupante. Anche questo non corrisponde, nel senso che l'articolo di stampa a cui si riferisce riporta indirettamente un dato prodotto dalla Direzione Antimafia che poi nella relazione dell'antimafia non c'è. Anche qui, cioè, voglio dire, bisogna stare un attimo attenti. Però io aggiungo che il dato della conferma di un'offerta illegale di gioco, soprattutto per quanto riguarda le slot, fa ancora di più pendere, diciamo, l'interesse pubblico a difendere il circuito del gioco legale, non a minarlo e smantellarlo. Però Passamonti, se ancora dopo quello che è successo è così, sì. Il problema, guardi che in Italia esiste una rete di accettazione di scommesse sugli eventi sportivi che praticamente per una serie di cavilli burocratici e amministrativi offre i propri prodotti alla luce del sole. Però le chiedo questo, Passamonti, mi scusi, il signor Giovanni che prima ci ha fatto la testimonianza è il prodotto di una situazione legale, cioè di macchinette a disposizione. Facciamo conto che sia prodotto di una situazione non di bische clandestine ma di slot machine, di tutto quello che trova in maniera legale. Stava nei bar, come? Lui. Sì, no, ma infatti, come vi ponete di fronte a questo, Passamonti? Guardi, io anche recentemente ho proposto, ma l'ho proposto perché ne siamo convinti, cioè anche per noi è stato ed è un percorso difficile e faticoso, ma con grande senso di responsabilità, come abbiamo fatto con la pubblicità. Noi ci siamo dotati di un codice di autoregolamentazione sulla promozione pubblicitaria dei prodotti da gioco prima del Balduzzi. Noi abbiamo proposto abbiamo siglato un protocollo d'intesa con l'ANCI per cercare di gestire le ricadute sul territorio dell'offerta da slot, aggiungo che ultimamente ci stiamo ponendo seriamente, e io ne sono personalmente, e credo di parlare anche a nome di tutta Confindustria Sistema Gioco, il problema di come riconsiderare l'offerta di gioco pubblico nel nostro paese. Io ho preso, cioè, ridurre usando quindi un termine, un nuovo piano regolatore del gioco attraverso tutti quegli interventi che possono passare anche attraverso una riduzione, anche attraverso una riallocazione delle slot, mantenendo sempre comunque un controllo forte da parte dello Stato in luoghi che lo consentono, naturalmente. Quindi questi problemi ce li stiamo ponendo. Dico però, affrontiamoli tutti insieme in modo razionale e sereno, perché altrimenti rischiamo di buttare il bambino con l'acqua sporca. Questo è il punto. L'acqua sporca farebbe dei danni clamorosi all'economia. Bonacina, tra un attimo, dopo le informazioni sul traffico, ci sono anche tanti ascoltatori, la replica su questo e anche sul tema, per esempio, Bonacina, voi chiedete che la pubblicità venga eliminata, vorreste un'eliminazione di questa pubblicità, come diceva prima la nostra autore della testimonianza, andrebbe abolita la pubblicità sul fumo. Siamo qua alle 8:48 minuti, gli italiani e il gioco d'azzardo legalizzato. Con noi ci sono Riccardo Bonacina, direttore di Vita, e Massimo Passamonti, presidente del Sistema Gioco Italia. Ci sono tantissimi ascoltatori, vorrei dare la parola, se siete sintetici, grazie. Andrea da Roma, sintetici ma efficaci. Andrea, buongiorno. Pronto? Dica. Sì, buongiorno. Senta, io lavoro sulla via, vicino alla via Tiburtina a Roma. E ci sta un susseguirsi di sale da gioco che sono spuntate come i funghi. Adesso noi che lavoriamo lì da quelle parti, io per fortuna il vizio del gioco non ce l'ho, ci siamo fatti una certa idea. Ci siamo fatti l'idea che questi posti siano nati per riciclare i soldi della malavita, nonostante che ci sia l'ufficio della Guardia di Finanza che si occupa di, del riciclo dei soldi sporchi. Questa è la nostra idea e lo Stato tollera questa cosa. E io ho la ferma convinzione, perché questo me lo fece studiare addirittura i professori di statistica all'università, che questi sono i posti dove la gente, la malavita, ricicla i soldi. Beh, questa però è un'idea, è un'idea che lei ha, che si è fatta una convinzione, che è diventata una prova, insomma, già certificata. No, guardi, una prova, le prove basta andarle a cercare. Tra l'altro, se lei vede pure i personaggi che girano da quelle parti, si rende conto che quello, che questa idea che noi, ma non solo io, altre persone, perché lì ci vivono delle persone anche normali che non hanno questo problema, e le dico pure, siccome i software che vengono utilizzati da queste macchine possono essere taroccati, e questo lo sanno tutti, questi soldi delle tasse che lo Stato prende, secondo me non prende nemmeno tutti quelli che dovrebbe prendere. Va bene, infatti, grazie Andrea per questo. Non è compito mio, è la polizia. No, ma è chiaro, lei ha queste cose. Ha se queste idee. Sono sbagliato, sono l'uomo più felice del mondo e rimane solamente il problema di quelle, purtroppo, persone che si fanno prendere dal vizio. Grazie Andrea, risponderà tra un attimo Passamonte. Prima vorrei andare a Prato da Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, mi sente? Benissimo. Io rapidissimamente parlo da giocatore, ancora giocatore, ma da ex giocatore ludopatico, nel senso che quando ero ragazzo universitario tutto quello che era in tasca io lo consumavo al gioco, poi ne sono uscito con mezzi, diciamo, propri, nel senso che a un certo punto non ho avuto più le risorse per giocare, ho dovuto smettere per necessità e poi per fortuna ora mi gioco qualche decina di euro al mese, per cui posso, credo di non essere più considerato un affetto da ludopatia. Volevo dire che secondo me, avendo io un'esperienza anche di quando il gioco del slot non era legale, quindi veniva effettuato in sale non autorizzate, volevo esprimere il concetto che è importantissimo che sia comunque lo Stato a gestire non solo il gioco d'azzardo, ma anche tutto quello che noi possiamo considerare piacere o vizio, come l'alcol, per non lasciarlo in mani, per non lasciarlo in mani. In questo modo almeno tutto quello che viene speso, al di là, salvo diciamo casi particolari di clonazioni, come si stava dicendo prima, è importante che finisca tutto nelle mani, insomma, perché almeno c'è un controllo. Grazie Alessandro, il concetto l'ha espresso. Riccardo Bonacina, voi cosa chiedete? Chiedete per esempio sulla pubblicità, la vorreste cancellare, la possibilità di fare pubblicità? Guarda, quando dico noi, dico anche, lo dico per Passamonti, insomma, sono 180 sindaci che ci hanno scritto, che hanno aderito, basta andare su vita.it, quindi chi vive sul territorio sa benissimo quante sale nascono, il disastro delle macchinette nei bar, spesso addirittura associazioni di commercianti che non se la sentono più di vedere gente, diciamo, ammalarsi e spendere tutto a questi giochi. Noi chiediamo che la pubblicità, voglio dire, non capisco perché è vietato il fumo, è vietato l'alcol e si possa fare pubblicità ai giochi, tanto più in orari protetti. Poi una regolamentazione anche sul web, perché diciamo i dati sul web, ho visto che Passamonti contesta anche il report di NetBet, però Bonacina, come la mettiamo con l'accusa che spesso viene di fare di uno stato etico, cioè dov'è il diritto alla libertà, e quando si comprende il diritto alla libertà c'è anche il diritto, ahimè, alla libertà di farsi male? Sì, però diciamo pubblicizzare la libertà di farsi male mi sembra disastroso. Non è che si pubblicizza la libertà di farsi male, si pubblicizza. Sì, perché anche le pubblicità, diciamo, che dicono gioca in maniera responsabile, come dire sparati ma sii prudente, cioè scusa, ma perché il fumo e l'alcol non si possono pubblicizzare? Perché cioè fanno male. E qui Passamonti, lei contesta l'idea, il gioco fa male? Assolutamente sì, assolutamente sì. Intanto vorrei dire un paio di considerazioni sulla pubblicità. Ripeto, Confindustria del sistema gioco si è dotato di un codice codice di autoregolamentazione della pubblicità molto più stringente nei suoi riferimenti e nei riferimenti degli operatori per quanto riguarda i messaggi pubblicitari, molto più stringente rispetto al decreto Balduzzi. Da questo punto di vista il problema della pubblicità anche qui ce lo siamo posti anche in relazione al territorio e da qui abbiamo firmato un protocollo di intesa con l'ANCI. Sì. Bonacina ci sono 180 comuni, ripeto, il problema è quello di affrontare l'offerta del gioco pubblico in modo serio sul territorio nazionale. Criminalizzare il gioco non serve a nulla. No, criminalizzare no, però l'ascoltatore invece che ha detto lì ho un'idea, lì sto sulla Tiburtina, che secondo me nascono tutti per riciclare denaro. Ma guardi, riciclare denaro nelle strade del gioco legale, per come funziona il sistema anche dell'offerta pubblica di gioco, da quello automatico a quello diciamo così sulle scommesse, a qualsiasi altro tipo di gioco, credo tutti lo possono confermare, è molto molto difficile fare una battuta sul riciclaggio. Non ci vuole niente, ma l'idea per farlo, l'impianto di funzionamento, sì, sì, dell'intero sistema del gioco, lo rende molto ma molto difficile. È difficile, però guardi, Passamonte, perché abbiamo un minuto, poi la linea del cellulare o della linea telefonica comunque non ci assiste nell'ultimo minuto. Sentiamo se Sergio da Padova ci può concludere la trasmissione con un'altra testimonianza. Sergio, buongiorno. Ma la mia testimonianza è questa: io ritengo che cercare di difendere il gioco in qualche maniera è già sbagliata la premessa, perché diciamo fenomeni come il fumo e come il gioco portano a una distruzione di parte importante proprio della popolazione, della sua salute e del suo, diciamo, del suo tenore economico. Quello che voglio dire sul gioco è che un ammonimento a chiunque voglia iniziare, diciamo, si trova a giocare, è quello che il gioco porta a un meccanismo, a mio parere, in cui tu non giochi per vincere. Ma perché lei ne parla perché sì, beh, a suo tempo io, dopo una separazione 15 anni fa, diciamo, avevo avuto per 7-8 mesi e ho perso anche parecchi soldi. Ma la cosa che mi succedeva, e sono convinto che succede ai giocatori, è che una persona sana, quando gioca la prima volta, se vince, sì, subito, cioè piglia e se ne va con la vincita forte specialmente, sì, e invece il giocatore piglia e sta là finché non perde tutto, certo, quanto. E qui si innesca quel meccanismo di cui parlavamo prima. Io vi ringrazio, mi devo fermare qui. Riccardo Bonacina, vita, www.vita.it, se poi volete leggere anche approfondimenti, e Massimo Passamonti, presidente del Sistema Gioco Italia. Si vota fino alle 3, domani parleremo di politica. A domani.